Innocente garzon, tu ancor non sai con quanti strali amor ferisco ancora. Verrà, verrà per te quel giorno ancora che pensier cangerai. Se avessi un solo amante, fra le donne sarei donna volgare. Ma qual ventura è questa? D'un destriero volante veggio che scende armato cavaliere. A questa parte e volge il piede. Che via! Grazie al ciel, pure alle fine calchi non c'ero il suol. Se solo è questo, chi bel felice riso, il bel soggiorno mi rassembra. Poiché per mia gran sorte è sceso dal cielo, onori regni miei, cavaliero gentil, dimmi chi sei. Roger mio son, giunto credio nel cielo, che tutto spira qui nel taceresti. Qui dove io son reina, valoroso Ruggero, signor tu sei. Troppo mio amore, Alcina, tanto devi al tuo nome, al tuo sembiante. Sola mia per davanti può far confronto a sua gentil bellezza. Fisso mi guarda e poi fra sé favella, nuova preda sarà degli occhi miei. Ah, la mia per davanti è assai più bella. E con l'ombra t'assidi, e fianco tuo riposo, e ti ristora in quest'onda tranquilla, come chiara zampilla. Assaggia amico il limpido cristallo, il prendo l'esca. Onda giammai più fresca, non assaggiai. Egli nel petto avea qualche fuoco d'amore, l'onda ne spense già tutto l'ardore. Questo amore si leggero, caro, della tua sete, estingue il fuoco, il colgo nella rete, a poco. È vero, Arcina, è vero, pare che libero il cuore respira. Ma questo è più suave, cuore cade del laccio. Ambrosia è questa, o nettare di Giove, incendio desta, l'onda fatal per me, nel di lui cuore, ed ogni altra bellezza adorata da lui l'idea cancella. Quanto cortese sei, donna gentile, un'altra ti simile vider quest'occhi miei, e forse non vedrà grazia simile all'ardir mio. Perdona il doppio sol di tuoi begli occhi, è quello che co suoi raggi il volto